Dunque, c'è una tecnica da fare. C'è un il signore di poc'anzi, di poc'anzi, si dedicava una canzone, la prossima, a una persona che ha portato qui. Va bene, la prossima canzone è dedicata a Rita. È dedicata a Rita. Un applauso, per favore. Cielo grigio, cielo blu, ma intanto tu dove sei tu? E se va avanti così, io m'ammazzo giovedì. Tutto il giorno sto così, pensando a quando tornerai. E la speranza è sempre lì, e tu chissà dove sarai. E mentre un uomo prega, tu adesso dimmi con chi stai. Ma te che te ne frega di tutto il male che mi fai. E allora senti cosa fa, soddisfazione non ti do, divento romanista, anarchico o radicale, e quando è... Come? Quello è femminista, divento qualunquista. Conto fino a 1000 e attacchiamo, ok? E allora senti cosa fa, soddisfazione non ti do, divento qualunquista, anarchico o radicale, e quando è carnevale il travestito fa. Sì, vabbè, dicevi tu, l'indipendenza, ma ce l'hai. E son 2 mesi forse più, e non so ancora dove stai. Porca zozza, ma lo sai, il vicinato cosa fa? Quando passo ride e fa, c'ho le corna quello là. E tu, tu brutta strega, a quanti uomini ti dai? Tua madre invece nega, non pensa al male che mi fai. E allora senti cosa fa, soddisfazione non ti do, divento femminista, mi vesto trasandato, e quando al jailbreak vado, a culo nudo sto. Lesce il grillo e si è blu, ma intanto tu, dove sei tu? E se va avanti così, io m'ammazzo giovedì. Porca zozza, è vero, porca zozza. Porca zozza, ma lo sai, il vicinato cosa fa? Quando passo ride e fa, c'è la corna quella là. E tu, tu brutta strega, a quanti uomini la dai? Tua madre invece nega, non pensa al male che mi fai. La banda di Ranocchi. E allora senti cosa fa, soddisfazione non ti do, divento liberale, non pago più le tasse, e mi cascasse se dopo non lo fa. Siamo più bambini, è quello che ci frega, e mentre c'è chi prega, c'è chi fuma al bar. Shabadabada. Oh yeah. Siete un pubblico eccezionale. Dove state domani? Vi vengo a vedere? Eh?